Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ho sentito qualche sera fa l'intervento della filosofa Michela Marzano, una delle prime firmatarie dell'appello di Repubblica per la dignità delle donne. Ascoltandola, mi sono vergognata per lei e mi sono venuti i brividi. Sentire che ci sono donne che credono di essere acculturate e pretendono di rappresentare una categoria, quella femminile, in modo vittimistico, mi fa schifo. Le donne pensano ancora, dopo che abbiamo voluto la parità dei diritti, di poter provocare senza ottenere risposta di merito. Non siamo delle belle statuine da Comò, e se vogliamo dimostrare cervello, lo dobbiamo fare in qualsiasi occasione, altrimenti zitte e andare. Se pretendiamo rispetto, lo dobbiamo anche dare. Mi sembra di sentire quelle poverette che dopo un litigio col marito basta che questo venga a casa con un obolo d'oro e si sciolgono ai suoi piedi senza andare a fondo del problema. Che rispetto credono di meritare le donne di questo tipo? Nessuno. Sono solo vittime di loro stesse. Sono 35 anni che lavoro. Ho sempre avuto a che fare con uomini. Ora sono amministratrice e sottolineo che mai nessuno si è permesso di dire o fare cose sgradevoli nei miei confronti perché non ne ho mai creato la possibilità. Non ho mai avuto bisogno di essere difesa da nessuno e tantomeno ne sento il bisogno adesso, soprattutto da donne simili, che offendono la categoria femminile facendo credere che siamo delle oche. Non mi presento in ufficio con abiti trasparenti, ultrascollati, truccatissima, con tacchi a spillo, per poi dire «Ah, mi hanno provocato!» E che pretendi? Se gliela servi in mano, la carne mica è ghiaccio. Per quanto riguarda la signora Bindi, è lei che per prima non si fa rispettare scegliendo di fare parte dei demonizzati. È ora di finirla di dire che il premier strumentalizza e utilizza le donne, visto che le stesse sono maggiorenni, adulte e vaccinate e sanno quello che fanno. Non mi vengano a dire «mi aveva promesso di qua, mi aveva promesso di là» e bla bla. Tutte balle. Pertanto, se le signore si sentono usate, è un problema loro. Ma non si ergano a nostre protettrici perché non ne abbiamo bisogno. In quanto a Berlusconi, mi sembra che di pazienza ne abbia già avuta fin troppa. Forse qualcuno gli ha fatto scappare le briglie. Il messaggio da firmare su Repubblica è per l'ennesima volta la dimostrazione non di quanto interessi l'argomento, ma una scusa per fare dell'anti-berlusconismo. E queste donne dello spettacolo che firmano, sempre che sia vero che firmano, farebbero bene a riflettere. Pensate veramente che la Guzzanti sia una vittima? Siete veramente contente che ci sia una come lei che si debba ergere a difensore delle donne? Ma per piacere. Isa. Premetto che sono una ragazza che si piace, ma non per questo bella. Se qualcuno mi dicesse che sono più bella che intelligente, mi offenderei, perché dicendomi così mi avrebbe dato della stupida. Mi sembra invece che chi adesso sta facendo una battaglia la stia riducendo solo ad una questione estetica e secondo me questo offende maggiormente chi è stata offesa, perché riconosce pubblicamente che la suddetta sia una persona che non rientra nei canoni della bellezza. Tanta solidarietà mi dà l'impressione di pietismo nei confronti di chi è meno fortunato, ovvero meno bello, altro che solidarietà tra donne. Oppure mi sbaglio? Leda. Non sarò una firmataria dell'appello della Marzano. Penso comunque che un problema di condizione della donna in Italia ci sia, insieme a quello di immagine del nostro paese all'estero. Quello che trovo a dir poco sconcertante è l'ipocrisia di fondo che circonda tutto questo. Il velinismo non l'ha certo inventato Berlusconi con la pochezza delle sue trasmissioni televisive e le feste a Palazzo Grazioli. Le veline in Italia ci sono sempre state. Persino una zia di mio padre fu una di queste, scoperta all'epoca da Macario, e negli anni furono poi vari boncompagni, Costanzo, Pippo Franco, eccetera, eccetera. Da quando esiste la televisione, vedere del cabaret è una cosa assolutamente comune, a qualunque ora del giorno. Mi ricordo inoltre i programmi calcistici o comunque prettamente sportivi, nei quali la bella di turno aveva scopo prettamente decorativo. Non è da tantissimo che le suddette signore hanno acquisito il dono della parola. Vorrei inoltre ricordare alcuni abiti di scena della Carrà che rasentavano il sadomaso. Le showgirl sono sempre state tutte belle e guardiamo gli showman, simpatici, di sicuro sono molto simpatici. La donna deve essere bella perché è così che l'uomo la vuole e l'uomo ancora comanda. Anche nel mio piccolo ho avuto solo vantaggi dall'avere una bella presenza. Questo in generale aiuta, è statuto nell'intelligenza, nelle capacità delle persone e nelle aspirazioni personali. Insomma, le donne hanno sempre avuto qualcosa da vendere e quelle che utilizzano il proprio corpo per arrivare da qualche parte ci sono e ci saranno sempre. Questo è un delirio globalizzato, mondiale. L'unica differenza è che in Italia la Carfagna diventa ministro. Potrà essere anche il più bravo ministro del mondo, ma nessuno in America, Gran Bretagna o Francia avrebbe candidato una signora che tutti gli elettori possono vedere ammiccare dalle pagine di un calendario osé. Questo ha fatto fare al maschilismo il salto di qualità. Questa è la donna che vogliamo, anche in alte cariche costituzionali, in barba al decoro e alla seriosità noiosa della politica. In barba alle convenzioni di buon gusto della vecchia Europa e al puritanesimo ipocrita americano. Evviva la creatività goliardesca degli italiani che liberano il concetto delle donne in politica. Avete mai provato a mettere un paio di scarpe coi tacchi? Magari a una festa in maschera? Esperienza che consiglio a tutti gli uomini per rendersi conto del delirante stato mentale delle proprie mogli, sorelle, figlie che insistono ad indossare un tale strumento di tortura che le renda più belle agli occhi del maschio della specie. Tocca a voi uomini tirar fuori le donne dal pantano in cui le avete messe, perché troppo spesso loro non sanno quello che fanno e perché comunque il potere ce l'avete ancora voi. Joe, Brighton, Inghilterra. I ministri Ronchi, Sacconi e Maroni hanno parlato tanto sui diritti delle badanti, ma nessuno si è preoccupato che tali lavoratori, nella maggior parte dei casi, siano assunti da datori di lavoro che non hanno al 100% l'autosufficienza, causa età avanzata, ma sono pur sempre in grado di intendere e di volere, e che forse, data l'età, sono diventati saggi. La mia pensione è di 720 euro. Da questi dobbiamo togliere 200 euro di affitto, le tasse per acqua e per i rifiuti, entrambe aumentate, e lo stipendio della badante in base alla legge, 700 euro, più un dodicesimo di tredicesima, più un dodicesimo di ferie, più un dodicesimo di liquidazione, più contributi INPS, oltre alle spese per il suo mantenimento, che non sono poche. Tutti i partiti hanno pensato a difendere le badanti, ma i pensionati? Chi è rimasto a difenderli? Prima di parlare di una legge sulle badanti, forse sarebbe stato il caso di vedere attentamente chi ne faceva utilizzo e quanto poteva pagare, in modo da poter creare una legge giusta ed equa. Ora mi sento di peso verso i miei figli, non riesco più neppure ad avere la magra soddisfazione di comprare un piccolo regalo ai miei nipotini, non ne ho i mezzi. Belle leggi e bella sensibilità è quella di impoverire un'intera e già povera nazione sfruttando le necessità dei vecchi. Anche tutto questo incensare queste donne che, seppur proiettate in una realtà a loro estranea, cercano però continuamente di sovrastarti e di far stravalere il proprio interesse, è una situazione avvilente. Se fanno il loro dovere minimo, le dobbiamo quasi ringraziare, oltre che pagarle e mantenerle. Una pensionata, classe 1918. In questa crisi, ma sarebbe meglio dire sempre, i dipendenti pubblici e con loro tutti i lavoratori delle aziende pseudo-private, ma che in realtà sono a partecipazione statale, hanno solo il problema del mancato aumento del contratto, ma non quello più grande, di perdere il posto. Anzi, con la deflazione in corso, hanno più potere di acquisto e certezza del reddito. Gli unici a pagare sempre tutto sono i dipendenti privati, quelli che non possono evadere come gli autonomi o i professionisti, hanno paghe più basse degli statali e inoltre, in periodo di crisi, perdono il lavoro e non hanno alcuna sicurezza. Perché, di fronte a questa maggiore insicurezza, percepiscono uno stipendio uguale, se non più basso, dei dipendenti statali? Di solito la maggiore insicurezza viene ripagata, in ogni ambito. In un momento come questo, il vero surplus è avere la certezza del lavoro. I dipendenti pubblici e di aziende partecipate da enti pubblici, quindi, dovrebbero scontare questo minore rischio con stipendi più bassi. Tagliamo subito del 10% gli stipendi dei dipendenti pubblici e delle aziende partecipate da enti pubblici, Enel, Eni, A2A, eccetera, fino alle aziende dei comuni e delle regioni e delle province. Si possono risparmiare circa 20 miliardi all'anno, extra finanziaria. Questi soldi investiamoli nelle aziende private che creano vera ricchezza e lavoro e che assumono a tempo indeterminato in Italia. Inoltre si possono investire in ammortizzatori sociali per tutti quei lavoratori che restano senza reddito. Questa azione porterà maggior sicurezza nei lavoratori privati e quindi più domanda, dando avvio di nuovo a un circolo virtuoso. Lettera firmata. Gentile ascoltatore, la sua proposta è altrettanto semplicistica quanto controproducente, anche se parte da una considerazione fondamentalmente giusta. È vero, anche la garanzia del posto di lavoro ha un valore. E quindi è corretto pensare che un lavoratore statale o con un contratto a tempo indeterminato possa avere uno stipendio inferiore di chi fa lo stesso tipo di lavoro con un contratto a termine e senza garanzie successive. Ma detto questo, ha ben poche giustificazioni un eventuale taglio di tutti gli stipendi pubblici. Per gli statali, secondo me, ci vorrebbe l'esatto contrario: pagare di più e meglio chi lavora con professionalità ed efficienza, e in questo aiuta lo Stato a funzionare, a dare migliori servizi ai cittadini, magari anche a trovare soluzioni nuove per far risparmiare la pubblica amministrazione. Ci sono categorie di statali, penso per esempio agli insegnanti, che hanno stipendi già ora sensibilmente più bassi dei loro colleghi degli altri paesi europei. La scuola italiana ha anche per questo tanti problemi aperti. Non è certo il caso di aggiungerne degli altri. Di non esprimere alcuna umanità in quello che sto per dire, ma è l'unico sentimento che provo. Al gentile libico che ha deciso di riportare l'atmosfera di Kabul dietro l'angolo di casa nostra, sfiorando la strage, mando un ringraziamento per lo scarso funzionamento dell'ordigno da lui costruito con imperizia. Ma spero pure che dopo essere stato amorevolmente curato nelle nostre strutture, dopo che avrà sufficientemente spiegato la sua posizione e quella dei suoi complici, prosegua nel viaggio che aveva scelto, senza subire l'umiliazione di restare un invalido assistito dalla nostra società. Questo tipo di terrorista che razzola nei nostri cortili, a noi cittadini di Milano o d'Italia, non è che faccia meno impressione di una persona legata ad una struttura più organizzata internazionale. Anzi, in un certo senso, ci fa ancora più paura, perché è meno intercettabile e controllabile. Considerando quanti sono gli islamici che vivono nelle nostre città e considerando che, anche se apparentemente già ben inseriti e insospettabili, continuano a covare rabbia e odio verso di noi, abbiamo paura del fenomeno di emulazione che potrebbe far agire qualcun altro, magari in un supermercato o con più fantasia in metro o volendo in un giardino, fra una giostra ed uno scivolo. Non è che saltare in aria per l'azione di un terrorista per caso mi dispiacerebbe meno che per la bomba di un terrorista incallito. Non si può minimizzare l'episodio, non si può pensare che questi nostri vicini di casa ci siano affezionati. Giulia. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.